Che voglio ballare, sento i battiti dentro di me. È come un tam-tam che mi sta assillando, se hai pazienza mi sto collegando. Ecco l'acquario e dentro tutti gli amici, è così bello sapervi felici. Ora noi dobbiamo chattare, stai seduto, non ti puoi allontanare. Fuori il tempo è distratto e non conosce emozioni. Solo qui sei qualcuno e non potrai più fuggire. Accettami come un tuo amico, forse nemmeno mi vedrai di persona, ma almeno saprai ciò che dico. Per farti un esempio, io cercavo un iPhone ed invece è apparsa una donna.